Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buona domenica e buon pomeriggio a quanti ci ascoltano. Avrete riconosciuto queste note, sono di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu. Una canzone che è stata scelta dal nostro ospite e prima di rivelarvi chi è, facciamogli spiegare a lui perché ha scelto questa canzone. Beh, perché è una bella canzone, perché ha un testo che spinge alla speranza e soprattutto perché è la canzone che è risuonata nello stadio di Novara in occasione delle vittorie del Novara Calcio, che ultimamente sono state fortunatamente assai numerose. Ecco, allora svelato chi è l'ospite, il presidente del Novara Calcio, Carlo Accornero, commercialista di professione, prestato però allo sport per passione, mi sembra. È così. Io mi occupo professionalmente del Novara da molti anni, dall'84, quando dovetti assistere un mio cliente per l'acquisizione della società e non ho più smesso di occuparmene. Ne sono stato il presidente del collegio sindacale fino al 2006, quindi ho visto evoluzioni di tutti i tipi nella qualità degli azionisti, nella qualità dei successi sportivi, eccetera. Questo vuol dire qualità positiva e anche assolutamente negativa. Sì, assolutamente. Abbiamo cercato di tenere duro in tutti questi anni, finché nel 2006 i nostri attuali azionisti, il Policlinico di Monza della famiglia De Salvo, decise l'acquisizione del Novara e il giorno del closing ci salutammo e mi dissero: adesso poi ci aiuterà a trovare qualcuno, loro sono di Monza, ci aiuterà a trovare qualcuno a Novara che faccia il presidente. Abbiamo lasciato la riunione e dopo un quarto d'ora mi è suonato il telefonino e mi ha detto: ma perché non lo fa lei? E io ho chiesto 10 minuti di riflessione e poi, visto che bisogna anche un po' indulgere le passioni, ho accettato quindi questo bell'incarico. Ha prevalso la passione sulla razionalità, anche se poi i conti li conosceva bene, perché, quindi esatto. Ecco, cadeva un po' sul certo, sicuro. Certo. Però il Novara in quel periodo era in Serie C. Il Novara in Serie C, è iniziato in quel momento un progetto imprenditoriale importante. Il Novara ha una bella storia perché è nato nel 1908 e ha sempre partecipato a campionati professionistici, quindi una storia senza crepe, con vittorie, sconfitte evidentemente, ma sempre mantenendo piuttosto alta la bandiera. Nel 2006 questo progetto importante, che ha visto grossi investimenti in strutture sportive, l'inserimento della società in un gruppo, e qui un po' di deformazione professionale viene fuori, in un gruppo importante che opera la sanità, quindi in un settore delicato, per cui controlli di gestione, 2-3-1, certificazione di bilancio e tutte queste cose, una grande attenzione al settore giovanile e naturalmente un gruppo di professionisti di primissima qualità per formare lo staff della prima squadra. Quindi questi erano i pilastri. Si è ripartiti nel 2006 con questa strategia, già con l'obiettivo arriviamo in 3 anni alla Serie A? No, l'obiettivo non era questo. L'obiettivo era quello di fare un buon lavoro con un progetto imprenditoriale di medio termine, senza alti e bassi di umore eccessivamente condizionati dal risultato della domenica, anche se insomma si parla di calcio. Dopodiché abbiamo vinto il campionato nel 2010 passando dalla C alla B e poi l'anno scorso dalla B alla A col doppio salto. Insomma. Quest'anno in pratica, esattamente, nelle scorse settimane, a conclusione con questi spareggi finali che hanno portato appunto a rinnovare la Serie A. Quindi il prossimo anno disputa alla pari con le grandi. Ci accingiamo a questo campionato difficile, molto importante, perché sarà un anno impegnativo ovviamente, sarà un anno molto delicato, sarebbe molto buono riuscire a consolidare la posizione per poi cercare di capire come funziona questo mondo. Vedremo, sarà certamente impegnativo. Lascio poi ai colleghi dello sport di chiedere certo quali saranno gli acquisti, le strategie, le tattiche. Torniamo un po' alla sua passione. È accettato questa nomina appunto di presidente del Novara Calcio più per passione per il calcio o per passione per il Novara, per Novara? Certamente passione per Novara e per il Novara. La realtà della squadra è andata crescendo nel territorio cittadino in modo molto importante. Veniamo da un periodo di risultati difficili e quindi c'era stato un po' di distacco. Adesso veramente ci sentiamo nei confronti del mondo che ci circonda aiutati, amati, sostenuti in un modo straordinario. C'è un bel clima, allo stadio vengono le famiglie, i bambini con le sciarpe, le trombe, le bandiere, c'è allegria. Dobbiamo riuscire a mantenere questi valori. Come descriverebbe a una persona che non la conosce la città di Novara? La città di Novara è una città che molti novaresi considerano un po' grigia, un po' difficile, un po' poco incline agli entusiasmi. Il novarese è considerato una persona che alza sempre un po' il sopracciglio, soprattutto nei confronti del nuovo che arriva. La nostra esperienza dimostra il contrario. Noi abbiamo voluto avere un rapporto molto forte col territorio, a cominciare dagli sponsor, che sono tutti rappresentativi in modo molto forte del territorio, e anche con la promozione in Serie A abbiamo rinnovato i contratti chiedendo un piccolo incremento evidentemente, ma sempre ad aziende del territorio, perché sono le aziende che ci sono state vicine storicamente anche quando i momenti erano difficili. Con loro la Banca Popolare di Novara, De Agostini, mi permetta di citarli, la Comoli Ferrari, certo. Malizia Profumo d'Intesa dell'Ammirato, la Igor, che è la più importante produttrice di Gorgonzola, che è la specialità di Novara, ci hanno seguito fin dai momenti più difficili, e quindi era giusto che continuassimo a riferirci al territorio. La città ci ha abbracciati e sostenuti in un modo straordinario, e quindi questa città un po' grigia, un po' difficile, come la descrivono i novaresi, questa volta si è dimostrata blu, azzurra. Ma la considera l'ultima città del Piemonte o la prima città della Lombardia, come dicono? La squadra la considero la seconda del Piemonte dopo la Juventus. Dal punto di vista sportivo, città, certo. No, beh, la città, ci sentiamo molto vicini al Piemonte in questo momento, tra l'altro il governatore della regione Piemonte viene da Novara, quindi no, il riferimento piemontese è importante. Vi siete un po' orfani per aver perso la parte alta della provincia di Novara con la creazione della provincia. Leggevo l'altro giorno che il presidente della nostra provincia diceva che appunto per risolvere il problema delle province basterebbe riaggregarle tutte, e questo forse potrebbe essere una soluzione. Comunque ci sono anche forti legami con la Lombardia. Certamente, in fondo certo. Novara è una città appunto è poco distante da Milano, ha molti contatti con Milano, dal punto di vista economico forse è più legata a Milano che non a Torino. Noi tutti, chi fa l'imprenditore o il professionista nella zona di Novara è inevitabile rivolto molto di più a Milano che non a Torino, questo è evidente, però il legame piemontese resta importante. Quindi nella sua esperienza adesso di commercialista può parlare appunto di una città economicamente solida? È una città che aveva un tessuto industriale di medie imprese molto importante, che negli anni ha un po' perso. È una città che ha una realtà di gruppi come la Banca Popolare di Novara, De Agostini, di grandissima rilevanza. È una città che ha un tessuto di piccole imprese che ovviamente in questo momento fanno fatica, come tutti purtroppo in questo paese, ma è una città in cui c'è grande impegno. Gli imprenditori che io vedo al lavoro in questo momento proprio per far fronte alla crisi lo stanno facendo con una grande passione e un grande impegno. Ecco, in che settori particolarmente si può notare una vivacità, una crescita, una ripresa, una capacità di innovazione? Parlare di ripresa purtroppo non è tanto facile. Novara ha avuto una grande crisi nel tessile negli ultimi anni, che d'altro canto era un settore probabilmente certo. Un po' maturo. Ci sono indubbiamente delle realtà importanti in settori di innovazione. Bisogna che a questo punto si recuperi il tessuto però industriale, perché i servizi non bastano evidentemente per far crescere un'economia, e questo fa ancora fatica. Come i giovani, come vedono l'economia, la realtà economica, riescono a inserirsi nelle realtà produttive? C'è stata evidentemente una grande attrazione da parte di Milano e di Torino, e quindi la città rischia un pochino di perdere alcune delle forze migliori, però sicuramente il tessuto economico tiene, perché nella parte, diciamo, le città del Piemonte orientale, Novara è in questo momento quella che forse riesce meglio di altre a dare dei riferimenti ai giovani, che quindi tutto sommato si ritrova. E lei personalmente come vede i giovani di oggi? Io sono di una generazione che secondo me non ha trattato bene i giovani della generazione successiva. Io ho 63 anni, ho un figlio di 31 e una figlia di 29, ma quando vedo non solo loro, che peraltro sono fortunati evidentemente, ma i loro coetanei, soprattutto quelli più giovani, sono convinto che la nostra generazione ha delle colpe. Noi non li abbiamo trattati bene. I giovani sono davvero, sentono davvero il peso del precariato, sentono questa incertezza verso il futuro, fanno fatica ad affermarsi. Cioè non abbiamo creato anche una rete di valori in fondo a cui poter agganciare le loro esperienze. Questa è una cosa che condivido in pieno, e se mi permette di tornare un attimo sul certo. tema del Novara Calcio, è proprio stato lo sforzo che abbiamo cercato di mettere in piedi. come le dicevo, con molta attenzione al settore giovanile e alle società che operano sul territorio con ragazzi del settore giovanile. Abbiamo fatto un grande lavoro di investimento per tenerli vicini a noi, e quando ci siamo resi conto, con un progetto che si chiama Sestante Azzurro, anche appunto per ricordare i nostri colori, ci siamo resi conto che eravamo arrivati intorno ai 3.000 ragazzi che facevano riferimento alla nostra società, mi sono proprio detto che occorreva fare un salto di qualità e non dare solo assistenza dal punto di vista medico, tecnico, sportivo, di materiale, eccetera, eccetera. Ma abbiamo stretto anche un bel rapporto con la pastorale dello sport della diocesi, e quindi abbiamo dei percorsi di formazione dei ragazzi e dei genitori che riteniamo possano essere utili proprio per far partire bene i ragazzini dall'esperienza sportiva. E come avete anche un centro sportivo, si chiama Novarello. Si chiama Novarello, con un facile riferimento ad altre cose. Novarello è un nome che mi fa capire che è il centro sportivo del Novara. Forse non è bellissimo, ma però con immagine immediata. Ne parliamo, no? Parliamo nella seconda parte. Grazie. Del programma. Incontri. Ancora con queste note di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, riprendiamo il nostro incontro con Carlo Accornero, presidente del Novara Calcio, che questo pomeriggio, questa domenica, è con noi. Abbiamo parlato nella prima parte della sua esperienza, di questa avventura molto affascinante, molto appassionante, almeno dalle sue parole, di presidente del Novara Calcio. Parlavamo dei giovani, di come i giovani si avvicinano al calcio, ovviamente con la segreta speranza della notorietà e di far soldi, ma è un obiettivo che pochi raggiungono. Allora, come trasmettere ai giovani anche altri valori, valori appunto di solidarietà, di passione, di adesione appunto a un progetto sociale? Carlo Accornero. Come accennavo poco fa, e anche approfittando appunto della struttura di questo importante centro sportivo in cui sono stati investiti davvero molte risorse, che si chiama Novarello, in cui abbiamo voluto veramente partire di lì per tutto il progetto, lo hanno voluto i nostri azionisti, proprio perché questa rappresenta la nostra casa e quindi il nostro punto di riferimento per tutte le squadre del settore giovanile. È molto bello il sabato e la domenica vedere contemporaneamente 8 o 9 partite di bambini di tutte le età con gli amici, i genitori. Abbiamo voluto gestire il centro in modo molto aperto, chiunque può entrare, uscire, venire a prendere un caffè, vedere gli allenamenti, chiacchierare con i giocatori, proprio per dare un senso di serenità. Con questi ragazzi che abbiamo, alcuni di questi risiedono nel centro sportivo, e per loro abbiamo stretto un rapporto di collaborazione con un istitutore che gli fa studiare, perché altrimenti questi ragazzini rischiano di giocare solo a pallone e di non fare più i compiti. E poi abbiamo lanciato questo progetto appunto che si chiama Sestante Azzurro per unire in un grande accordo tutte le società che gestiscono un settore giovanile di calcio sul nostro territorio, per offrire la loro collaborazione e non essere solo la società che fagocita i ragazzini più bravi e glieli porta via. Questo è un rapporto che non avrebbe funzionato. Allora, noi vogliamo dare a loro la formazione, e l'abbiamo impostata in tutti i settori dell'attività, appunto medica, sanitaria, sul materiale sportivo, sui tecnici, gli allenatori, eccetera. E poi abbiamo aperto, perché ci siamo sentiti la responsabilità di questo numero di ragazzi che cresceva, che fa riferimento a noi, abbiamo aperto con la pastorale dello sport della diocesi un bellissimo rapporto con due bravi sacerdoti, uno si chiama Don Roberto Sogni, l'altro si chiama Don Franco Finocchio, che ci assistono nel percorso morale con questi ragazzi. È una cosa che funziona, è una cosa dalla quale vengono fuori delle belle iniziative. Le faccio un piccolo esempio: il patrono di Novara è San Gaudenzio, che è un santo abbastanza poco noto evidentemente, ed è un evangelizzatore dei primi secoli della Chiesa, coevo di Ambrogio a Milano e di Sant'Eusebio a Vercelli. Questi tre signori nel 300-400 a cavallo si andavano a trovare vicendevolmente. Don Franco, il giorno della festa del patrono, non solo abbiamo fatto dire la messa, evidentemente per i ragazzi e anche delle giovanili, ha raccontato ai ragazzi della prima squadra, che ovviamente non sono di Novara, la storia di San Gaudenzio, non solo dal punto di vista strettamente religioso. Ed era, secondo me, importante, no, che i giocatori che arrivano da città e che non conoscono il territorio avessero anche questo tipo di riferimento, ed erano appassionati all'idea di questo signore che appunto riceveva la visita di Ambrogio da Milano o andava a trovare Eusebio a Vercelli cambiandosi. Questi sono piccoli esempi di cose che funzionano. È una dimostrazione, in fondo, per dirla molto banalmente, che si può mettere insieme il sacro e il profano. Assolutamente, certo. Sì, siamo riusciti, poi di qui sono nate altre iniziative importanti, gliene cito una perché mi sta particolarmente a cuore, con la Fondazione Popolare di Novara e con l'Associazione Libera abbiamo fatto un accordo per cui abbiamo mandato 35 ragazzini e i loro genitori a Scampia a fare delle partite di pallone e loro verranno a trovarci a Novarello. Questo proprio per far capire, abbiamo bisogno, sentiamo la responsabilità di essere un punto di riferimento importante. La gente inevitabilmente guarda a noi, la squadra professionistica del territorio, poi adesso la squadra in Serie A, certo. E quindi dobbiamo ricambiare con questo tipo di valori, perché dobbiamo guardare a chi è forte sul territorio, gli sponsor, i tifosi, benissimo, ma dobbiamo guardare anche chi è debole, perché guarda a noi in modo molto importante. A Novarello fanno riferimento molte associazioni sportive, moltissime associazioni di volontariato che ci chiedono di condividere momenti insieme, anche per raccolte di fondi, naturalmente mettiamo all'asta le magliette o cose di questo genere. Dobbiamo essere un riferimento di questo tipo. Quindi in fondo da imprenditore questa è la responsabilità sociale dell'impresa. Una cosa questa che... è la, che è molto forte, perché il calcio ti porta inevitabilmente, soprattutto avendo vinto, e questo devo dirlo senza falsa modestia, a essere un punto di riferimento. Ecco, un punto di riferimento quindi per la società, anche per dei valori che vanno al di là di quelli immediatamente sportivi, di quelli immediatamente economici, di quelli pratici. Questa, è possibile farlo nel calcio, è possibile farlo anche nel mondo dell'attività imprenditoriale? Ma guardi, nel mondo nostro io sono sicuro che alla fine, oltre a essere un'attività di servizio, è anche un'attività che ritorna, perché questo tipo di legame con il territorio è importante. Noi, le ho citato il discorso del legame con i ragazzi del territorio e con le imprese del territorio, e torno su questo concetto proprio per sottolinearlo. Noi avremmo potuto cercare degli sponsor, non di Novara, che forse ci avrebbero anche dato più soldi dal punto di vista strettamente economico. Abbiamo voluto mantenere questo tipo di rapporto perché il riferimento deve essere continuo, e questo nel confronti di società sportive dilettantistiche, associazioni sportive di vario tipo, associazioni di volontariato, l'essere presenti e visibili è molto importante. Ecco, questo anche per dare fiducia un po' alla città, al territorio, ai giovani, abbiamo detto, una fiducia che è complessiva, che è una fiducia appunto anche nei successi sportivi, ma non solo nei successi sportivi. Che deve riuscire a dare l'effimero del successo sportivo, ma il concreto dell'attività di tutti i giorni. Ecco, come vede appunto il futuro del Novara Calcio, certamente di restare in Serie A, di avere dei grandi successi con molto realismo, però, ma anche di Novara come realtà, allora, territoriale. Noi abbiamo preparato un budget molto, molto prudenziale, abbiamo fissato alcuni criteri di riferimento ai costi e ai ricavi, che sono quelli che si chiamano, esiste questo concetto del fair play finanziario che dovrà essere applicato in modo preciso, per esempio il 60% e non di più di costo del lavoro rispetto ai ricavi, perché la responsabilità evidentemente è quella di tenere duro, soprattutto dal punto di vista dei conti, perché se tutto quello che ho detto dovesse venir meno e fallire dal punto di vista economico, avrei detto anche perché lei non è un presidente, serie di stupidaggini. Non è un presidente che apre il portafoglio. Perfettamente, io devo gestire il portafoglio altrui e quindi bisogna farlo con molta attenzione. Ovviamente ho un amministratore delegato che opera, Massimo De Salvo, con grande qualità e impegno e che rappresenta l'azionista. Per quanto riguarda Novara, credo, in modo, per carità, non vorrei sembrare immodesto, ma dobbiamo riuscire a dare un contributo appunto di riferimento, e la città in questo momento sta avendo, mi dicono, anche così, un po' di simpatia in più grazie a questa bella avventura che noi stiamo vivendo. Sì, è una cosa che dà forse un orgoglio cittadino, un orgoglio di identità, di realtà locale, che non è solo un'identità appunto sfrastagliata tra le tante. Io ho ricevuto molti messaggi, ovviamente, la sera del 12 giugno, quando siamo stati promossi in Serie A. Ce n'era uno che diceva: ti ringrazio perché questa sera mi sento particolarmente orgoglioso di essere novarese. Ecco, questo secondo me riassume bene forse quello che mi è piaciuto di più. Ma non le fa un po' paura entrare un po' in contatto con queste grandi società e con un mondo del calcio in cui io ne parlo da profano perché lo seguo molto a distanza, però sembra un mondo per certi versi un po' malato. Questo è un aspetto sicuramente che c'è, ma secondo me bisogna insistere proprio sulla realtà invece. È chiaro che in Serie A noi ci incontreremo con un gruppo di società con le quali non possiamo competere, ma se noi riusciamo a mantenere la serenità di comportamento, sdrammatizzare un pochino il risultato della domenica, che non sia esclusivamente il punto di riferimento, anche se naturalmente non si conta. Può perdere, conta, questo è inevitabile, bisogna riuscire a mantenere questa cosa che finora ha funzionato. La nostra vittoria è una vittoria del gruppo, è una vittoria di professionisti di grande qualità che si sono sentiti molto legati fra di loro, molto impegnati, molto uniti. E questo deve continuare perché è anche importante dal punto di vista dell'immagine. Quindi anche come motivazione, dare la motivazione ai giocatori, ma anche agli spettatori. È importante dare una motivazione che vada al di là, appunto, soprattutto nel momento in cui andremo incontro, dopo 2 anni di vittorie straordinarie, sicuramente a una bella serie di sconfitte. O magari anche a qualche risultato clamoroso. E a qualche risultato clamoroso. Dire, clamoroso. Togliersi qualche soddisfazione, come lo si dice. Lo stadio di Novara è intitolato Piola, mi sembra. Silvio Piola. Silvio Piola, che è uno dei grandi del grande Novara. È stato la stella del grande Novara degli anni fino al 1955, che è stato l'ultimo anno di appartenenza nostra alla Serie A. Che comunque Novara non ha mai vinto uno scudetto. Ahimè. Questa potrebbe essere l'occasione perché buona. Perché porci dei limiti. Questo sicuramente. Ecco, ma allora, per raggiungere questa finalità avete tutte le carte in regola. Le carte in regola ci sono tutte. Gestione ordinata, grande impegno, professionisti di qualità. Si tratta di continuare a lavorare in questo modo. Ecco, se dovesse tornare indietro, rifarebbe questa scelta? Senza dubbio, senza dubbio. E quindi una scelta, diciamo, vincente anche dal profilo professionale? Ma la farei non solo perché abbiamo vinto, ma perché obiettivamente tutto questo dal punto di vista delle soddisfazioni mi ha evidentemente, mi comporta un po' qualche tempo dedicato in più evidentemente, ma il ritorno in termini umani è straordinario. Ma quando lei ha cominciato la professione non pensava di poter finire? Certamente a no, ma io continuo a fare la professione, non posso abbandonarla. Da piccolo pensava di fare una cosa del genere oppure voleva fare l'aviatore o l'ambasciatore? No, francamente no, sarebbe stato però curioso. Se io dicessi che pensavo di fare il presidente di una squadra di calcio, direi una bugia. Penso che non sia appunto nelle prospettive no, delle persone, mediamente, tra virgolette, normali. Mediamente no. Mediamente. Ecco, quindi è contento di questa scelta. E cosa consiglierebbe a chi si vuole avvicinare, forse non alla professione di presidente, che è una professione molto particolare, certo, però al mondo del calcio? Ma guardi, è una richiesta che mi viene fatta, per esempio, da società di serie minori, di città intorno a Novara. Ho parlato con amici a Vercelli, ad Alessandria, e mi chiedono qualche consiglio qua e là, soprattutto per vedere qual è stato il nostro percorso. Il consiglio è proprio quello che ho detto prima, un progetto molto, molto forte, investimenti molto ben costruiti e ben mirati, gestione attenta, budget da rispettare, follie non se ne fanno, perché altrimenti la cosa può ottenere dei risultati, ma diventano effimeri, diventano risultati di breve termine. E possiamo dire a questo punto la serietà aiuta anche la fortuna, perché anche un po' di fortuna ci vuole. Non c'è dubbio. Essendo un gioco. Non c'è dubbio, e ne abbiamo avuta. Ecco, quindi tanta fortuna, tanta serietà, e allora complimenti. Grazie. Avanti di questo passo, con tutto il rispetto per le altre società. Naturalmente, ovviamente. Naturalmente. Grazie a Carlo Cornero, presidente del Novara Calcio, commercialista nella vita ma prestato allo sport con grande passione, così come ringrazio per questa puntata Filippo Reggi in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, buona domenica a tutti e ancora buona estate.